Vabbè, iniziamo. La prima roba che mi viene da dire è che, vabbè, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno a fare questa iniziativa che veramente è sempre ricca, importante. Ogni volta ti rendi conto che stiamo facendo un lavoro importante, insomma, per Milano e per i territori da cui provengono i vari produttori. Cercherò di essere velocissimo perché siamo in tanti e il tempo è poco. Insomma, quindi non voglio rubare tempo a tutte le persone che abbiamo invitato a questo dibattito. Speriamo che questo dibattito, insomma, è bello, è anomalo secondo noi, nel senso che comunque, e questo è un merito secondo me degli spazi come il Leoncavallo e degli spazi come il Folletto, insomma, di riuscire a far incontrare delle persone che difficilmente si sarebbero incontrate in altri luoghi, sia istituzionali che non istituzionali. E è un po' quello che sta succedendo nei saloni di là, insomma, ci sono degli incontri che non sarebbero mai avvenuti e si vede, insomma, in questi anni tante cose stanno succedendo. E per questo volevamo aprire questo dibattito con Valentina Cancelli dei Comitati Notav, perché ci sembrava giusto così, una delle esperienze di resistenza, di lotta sui territori più significativa in questi anni in Italia, e quindi ci piaceva così, innanzitutto un aggiornamento di quella che è la situazione e anche un saluto di affetto reciproco, insomma, che ci vuole, insomma, incontrarsi così. E niente, do la parola a lei, ricordando che poi alla fine del dibattito invece sarà proiettato Fratelli di Tav, che è un video molto bello fatto da con un grosso sforzo dal basso, non è una parola che spesso si usa, ma veramente dal basso sulla Tav, ma non solo in Val di Susa, un po' tutti gli effetti collaterali che questo ha portato nei territori in cui questo megaprogetto ha attraversato l'Italia.